Buonasera, benvenuti e benvenute qui alla Biblioteca Claudia Augusta per questa serata di presentazione di libro. Sapete sempre, io all'inizio devo fare un po' di pubblicità alle nostre altre iniziative e questo farò in questo momento. Abbiamo una settimana veramente molto intensa, diciamo che abbiamo fatto una piccola pausa la settimana scorsa per la chiusura delle scuole e questa settimana riprendiamo alla grande. Infatti stasera appunto avremo questo appuntamento di cui parlerò dopo. Invece vi voglio dire che domani abbiamo già un altro appuntamento ed è l'inaugurazione di un ciclo di incontri a cui teniamo molto, in collaborazione con l'Università di Trento, con l'Istituto Storico Italo-Germanico, Fondazione Bruno Kessler, sempre di Trento. E quindi domani sera avremo il primo appuntamento alle 17.30, sempre qui, La storia economica, sociale e ambientale delle Alpi, percorsi di ricerca, con Andrea Bonoldi, appunto, del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento. Il ciclo si chiama Ambiente, Mercati e Comunità. I prossimi appuntamenti saranno uno questo mese e due il prossimo mese. Passiamo a mercoledì. Mercoledì invece abbiamo il consueto incontro legato al gruppo di lettura. Il gruppo di lettura si chiama Localmente, questo perché si tratta di narrativa locale. In questo caso è narrativa poesia, diciamo, perché abbiamo in lettura Anita Pichler, Le donne di Fanis. Ne parleranno appunto nel gruppo di lettura mercoledì pomeriggio alle 17. Il nostro gruppo, le nostre signore, sono quasi tutte signore. E ultimo appuntamento per la settimana invece con Viviana Donadello e i suoi due libri, La memoria della pelle e Tutti vogliono un lieto fine. Come vedete alle 18, in questo caso venerdì 14, avremo appunto questo appuntamento. Come vedete la settimana è anche dedicata molto al discorso della donna, ovviamente il mese di marzo è il mese della donna e di conseguenza abbiamo questi appuntamenti appunto con autrici e con libri che parlano di donne. E diciamo che la serata di oggi è sicuramente un bel inizio. Abbiamo appunto con noi Cristine Vescoli e il suo libro Nulla Materno. Abbiamo anche la traduttrice in italiano, che ha tradotto, la traduttrice che ha fatto il lavoro e ci fa vedere il libro in italiano, ci parlerà del libro in italiano ovviamente, e poi con noi ci sarà anche Stefano Zangrando. Lascio la parola a loro, ai nostri relatori, e vi auguro una buona serata. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Grazie di essere presenti, grazie alla Biblioteca Provinciale Italiana dell'Ospitalità, grazie ad Alfabeta e Rezia di aver voluto questa presentazione. E sono molto contento che questa presentazione in particolare avvenga qui oggi, perché credo che sia una cosa anche di un certo valore simbolico. Non è l'unica tra quelle che si verificano di questo genere, ma sicuramente non è neanche una di molte. Mi spiego. Abbiamo a che fare con un'autrice locale, comunque di origine bolzanina o sudtirolese, che ha scritto un romanzo d'esordio in lingua tedesca, pubblicato nell'area di lingua tedesca, e che poi è stata immediatamente tradotta da una casa editrice, Alfabeta, che è per vocazione territoriale la casa editrice che costruisce ponti tra i mondi italiano e tedesco, e questo romanzo d'esordio è stato tradotto da Cristina Vezzaro, che è una traduttrice sì affermata a livello sovranazionale nel modo che diremo, ma è anche una traduttrice di origine bolzanina. E quindi, se non è troppo iperbolico, esagerato, mi piace pensare che un tipo di operazione come quella di oggi, che mette in contatto i due mondi linguistici e culturali con delle risorse immediatamente locali, mi sembra un buon esempio di cosa sarebbe bello che succedesse spesso, anche più spesso, in questa provincia. Quindi io vi ringrazio di essere qui. Il libro di cui parliamo si chiama Nulla Materno, lo vedete qui davanti a me. Il titolo è la traduzione di una parola composta tedesca che è Mutternichts, lo vedete già, la copertina stessa dell'edizione tedesca non è troppo diversa da quella italiana, ma prima di parlare di queste vorrei presentarvi brevemente l'autrice e la traduttrice. Allora, Cristine Vescoli non è solo un'autrice nata e cresciuta in questo territorio. Per chi ha un po' il polso della scena culturale e letteraria anche di lingua tedesca, Cristine Vescoli è la, come posso dire, la coordinatrice, la regista di una delle massime rassegne territoriali sulla letteratura per lo più di lingua tedesca, ma non solo, che è Literaturlana, che ha portato in Alto Adige alcuni tra i più importanti nomi della letteratura tedesca degli ultimi decenni. Mi chiedo quanti di noi lo sappiano o lo sapevano, ma potrei fare la stessa domanda in una presentazione con un pubblico di lingua tedesca rispetto a quanto sappiano delle kermesse o degli happening che avvengono in lingua italiana in questo territorio che si occupano di letteratura. Questo per dire che questo nostro Meet Einander di oggi è un po' una bella spinta verso un modo di fare che smentisca il Neben Einander consueto con cui continuiamo imperterriti a operare, no? Forse un po' troppo spesso. Quindi Cristina Vescoli è una persona attiva anche sul piano dell'organizzazione letteraria e culturale. Debutta, da adulta fatta e finita, potremmo dire, con un romanzo che evidentemente risente di una sua formazione letteraria, che è, si nutre di questi incontri, ma mi piacerebbe, Cristine, che tu ci raccontassi brevemente di questa formazione e se hai appunto un tuo, come posso dire, album di famiglia, una tua cornice entro la quale hai avuto dei modelli che ti hanno spinta a scrivere oltre a quello che dici nel libro sulla scrittura. Noi parleremo in italiano e in tedesco. Cristine, dove se la sentirà, risponderà in italiano, altrimenti Cristina è qui anche per tradurre quello che Cristine dirà. Mi permetto di chiedere a tuo nome un pochino di comprensione, perché noi che lavoriamo come traduttori letterari non siamo interpreti in senso stretto, professionale, è un tipo di lavoro diverso. Quando lo facciamo abbiamo bisogno del giusto raccoglimento. Allora, ben arrivata, ben trovata, complimenti per questo libro d'esordio, come ci sei arrivata? Allora, buonasera a tutti, sono molto felice e contenta di essere qui e di presentare il mio libro nella traduzione italiana. Ecco, la tua domanda è un po' difficile perché tocca proprio un punto un po' sensibile nella mia biografia e anche nel mio rapporto letterario, diciamo. Allora, avevo mai un progetto, un programma di diventare scrittrice, anzi neanche l'idea di diventare scrittrice, ma avevo sempre un sogno o quasi un bisogno di scrivere che non aveva niente da fare con scrittrice come ruolo, come anche immagine di me stessa. E questo forse è anche un punto un po' sensibile, debole, perché c'era sempre qua o diritto o divieto. Sono sempre quelli che hanno il diritto di scrivere e quelli o quelle che non hanno il diritto. Sembra o suona un po' assurdo proprio anche nel nostro tempo, però era così, devo dire. E questo fa parte anche del libro, del contenuto. E il punto di partenza, diciamo, ho scritto sempre, però sempre di nascosto. E in quel momento in cui è morta mia madre, forse si è liberato anche qualcosa. E proprio anche questo grande, grande bisogno di scrivere. E questo era anche il punto di partenza per questo libro, in cui sono crollati anche tutti i momenti di anche di vergogna, che fa parte anche del libro, certo. Come sentiremo. Sì, devo quasi confessare che questo tema di diritto o divieto di scrivere, chi ha il diritto, che si prende il diritto, chi ha il permesso di scrivere, che questo è sì, un momento molto importante, anche molto intimo, senz'altro. Non so se ho... Sì, hai risposto e come, e ci hai portati già sulla soglia del libro, nel senso che ci troviamo già con un piede all'interno, in un certo senso, però mi vorrei fermare ancora un momento su questa soglia, perché, come avete capito, abbiamo a che fare con un libro che tematizza fin da subito un confronto tra madre e figlia, un confronto che avviene dopo il lutto, quindi dopo la perdita della madre, è un confronto che tra le altre cose, poi vediamo e sentiamo anche il resto, comporta un rapporto con la scrittura che viene appunto tematizzato in una pagina rispetto... Quindi c'è questa figlia che in qualche modo è stata inibita nella scrittura dalla presenza materna in maniera più o meno implicita, più o meno esplicita, e che invece... a seguito del lutto è arrivata a prendere veramente la penna in mano, anche e soprattutto per interrogare questa figura materna e il suo nulla, di cui dobbiamo capire di che cosa si tratta. Lo capiamo insieme a Cristina Vezzaro. Cristina è una collega traduttrice molto affermata, ci siamo visti l'ultima volta a Rovereto quando presentavi l'Anti-Arabic Trube. E quindi è una persona che traduce molto, è stata premiata, ha vinto il premio Sanremo nel 2022 per la traduzione, una persona che traduce tante autrici e tanti autori, non solo di lingua tedesca, tra l'altro. Tu hai tradotto dal francese, mi pare, forse anche dall'inglese. Però ecco, non è capitato spesso che Cristina si confrontasse con un libro così vicino alle proprie, alle nostre zone d'origine. E quindi ti vorrei chiedere, senza arrivare ancora nello specifico, che cosa è stato per te accostarti a questo testo e poi lavorarci dall'interno? Allora, buonasera a tutte e a tutti. Intanto mi fa molto piacere vedere delle facce che riconosco, anche se sono tanti anni che non sono più a Bolzano. Grazie Stefano, che appunto è anche lui un grande collega traduttore, che traduce a sua volta autori molto importanti, quindi insomma parliamo tra colleghi. Ecco. Dunque, la traduzione di questo libro è stata un'esperienza molto intensa per diverse ragioni. Innanzitutto lo avevo letto come lettrice quando la casa editrice mi ha chiesto cosa ne pensassi, e subito naturalmente ho compreso quanto fosse un libro prezioso. Era un libro che da subito si è rivelato poetico, no? Si è vista subito tutta la potenzialità, e poi appunto anche di fatto il modo in cui si svolge il libro. Poi c'è stato l'approccio con la scrittura in italiano del libro, e devo dire che in questo caso i tanti anni di mestiere mi sono venuti incontro, perché questo è proprio uno di quei classici libri in cui non ti devi limitare a fare il compitino di traduzione, cioè non ti puoi, non puoi pensare di tradurlo avendo in mente di non fare errori. Non funziona così. È un libro in cui bisogna veramente arrivare con un approccio autoriale anche in traduzione. Certo. E quindi ho iniziato con molto rispetto per la parola, come faccio sempre quando inizio un libro, un rispetto che però non è timore reverenziale, no? Cioè non ho mai questa sensazione che quella roba lì non possa essere materia che in qualche modo si trasforma. Quindi lo rispetto per la forma, per il contenuto, e all'inizio sono molto aderente all'originale, fino a quando a poco l'originale mi si rivela, no? La scrittura mi si rivela attraverso la forma, quindi le allitterazioni, le rime, la struttura, il ritmo della scrittura, e poi a poco mi si rivela attraverso il contenuto, per cui io a poco mi addentro nella psicologia della scrittrice, in questo caso, e della scrittura. Allora, proprio in questo caso, in questo senso, tradurre, come hai ben sottolineato tu, un'autrice che condivide la mia cultura e la mia terra è un'esperienza estremamente particolare, perché noi di solito portiamo ciò che è lontano verso di noi, no? Cerchiamo di rendere fruibile a un pubblico italiano quelle che sono lingue e culture che loro non possono vivere direttamente. Mentre in questo caso è come se tu, come dire, conoscessi un'altra parte di te nella traduzione. Ed è un'esperienza molto bella, molto molto intensa, per cui devo dire che questo libro io l'ho divorato, come si divora un libro quando lo si legge, l'ho divorato traducendolo perché non volevo più uscire da queste pagine, da questa voce, e quindi insomma è stata una bellissima esperienza. Sì, è molto bello perché penso sia vero, è un'esperienza che poi chi traduce fa... Ed è proprio così, una cosa che per ora ci mette al riparo dall'essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, è proprio che avendo a che fare con una voce autoriale e dovendo saper scrivere per poterla riprodurre, non basta la lingua in sé, no? Bisogna entrare e trovare quella voce, trovare un analogo di quella voce nella propria madrelingua, entrarci con tutta la propria dimensione culturale. E in questo caso, no, dove siamo su un territorio con una tradizione anche rurale rispetto alla quale siamo cresciuti vicini, sentendola sempre presentissima, ma al tempo stesso un po' distante, quindi è un confronto davvero, davvero serratissimo e penso che tu abbia fatto un ottimo lavoro. Non abbiamo detto che cos'è questo nulla. E nemmeno abbiamo detto perché le due copertine sono simili. Io farei così, se siete d'accordo. Vi proponiamo un assaggio, l'attacco del romanzo, l'inizio in lingua tedesca, letto da Christine, e poi lo sentiamo un pochino più lungo, tratto dalle prime pagine del romanzo, in italiano, perché capiamo subito sia che cos'è il nulla, sia che cos'è questo giallo di copertina, ed entriamo in questa storia che... capiremo presto, è l'interrogazione di un mistero, l'interrogazione di un segreto umano. Ok? Possiamo fare così? Sì, penso che alla fine non si sappia neanche cos'è questo nulla. Questo è... Non spoilerare. Non spoilerare. No, bene. Mutter schlug die Augen nieder, wenn sie nachdachte und in sich verschwand. Sie schaute in einen Punkt, der im Boden lag. Irgendwo war er immer. Manchmal lag er auf dem Tisch. Dann zogen ihre Finger langsam darüber und zeichneten unsichtbare Linien in das gebügelte Tischtuchleinen. Sie senkte den Kopf und ich meinte schon, er würde gleich abknicken. Aber plötzlich stemmte sie sich hoch und ihre Stimme war vollkommen klar, sodass ich nicht verstand, von wo sie herkam, während ich gerade noch gedacht hatte, das nichtsnutzige Nichts würde sich wieder über sie legen. Als ihr Blick zu mir zurückkehrte, wollte ich sie fragen, wo bist du gewesen, Mutter? Ich fragte nicht. Ich fragte sie nie. Es war schnell bei der Hand. Sie hatte es immer bei sich. Das Nichts war verlässlicher als ihr lieber Gott. Ob sie es brauchte oder sich davor duckte, wollte ich verstehen. Nichts zu sein und nicht zu sein waren für meine Mutter eins. A volte... Vado sulla sua tomba. Davanti a me la lapide con il nome, la foto, la data di nascita e di morte. In mezzo la sua vita. Uno spazio vuoto sulla lapide tra due date, senza un tantino tra loro. Nulla che unisca le cifre. Forse solo i miei occhi, incollati alla lastra di pietra. Cerco di parlare con lei. Non funziona. Non riesco a parlare a mia madre come se mi potesse sentire, sottoterra o ovunque sia. Come se la terra fosse la scriminatura che pettina la vita qui e la morte là e il mio ciangottio ci intrecciasse di nuovo insieme. Non funziona. Non so cosa sia una madre morta. Posso pensare alla mia mamma com'era, piccola, gracile e pieveloce. Posso pensarla in silenzio, rumorosa, infuriata o triste. Posso pensarla in tutti i modi, fiera, taciturna o titubante, forte, debole, abbattuta, spaventata. Le immagini ci sono, si muovono, incedono o si assopiscono. Ce l'ho in testa, ho il ricordo, ma non un'immagine di una madre morta. Non so dove metterla, con quale parte di lei coincide la parola morta. Pensavo di conoscerla, la usavo non diversamente da grande, dolce, rosso o stupido. La prendevo in bocca ed era un tutt'uno con la mia idea. Con mamma non regge. Mi tintinna in testa come noccioli secchi in una scatolina vuota. È la parola più sola del mondo. Non ho paura di dimenticare, come se la scomparsa seguisse da presso la morte. Ci sono gli istanti che cadono di traverso nei momenti. A volte entrano di soppiatto da una finestra come vagabondi, svuotano il frigorifero e si lasciano dietro un berretto o un accendino. Altre sono gli addii che ci sono stati. Io che entravo attraverso il cancello del giardino e lei che mi veniva incontro come una bambina che ride ignara, benché contasse le volte in cui mi avrebbe ancora aperto il cancello del giardino. Le volte che, a un certo punto, sarebbero diventate le ultime. Mi ha lasciato il suo nulla. Inesistente esiste, proprio dietro di lei. A volte penso un angelo nero, oppure una legge alle sue spalle, di cui lei era l'esecutivo. Ora quello spazio è vuoto, con la sua morte si è liberato. Dovrei quindi riuscire a vedere cos'era ciò che mamma aveva alle spalle. Dovrei riuscire a vederlo, il bene ereditato, lasciato in dono a me, la figlia amata e cucita ciecamente a sé. E splenderebbe al mio orecchio, al mio dito, sul mio petto. Luccicherebbe più di qualsiasi brillante che potrei infilarmi o sfilarmi o vendere. E potrei valutare con cosa barattarlo. Ma non è così. Se l'è portato, come si dice, nella tomba. Avevo 4-5 anni ed ero in piedi davanti alla finestra della cucina, tra la cassetta per la legna e i fornelli. La tenda della cucina pendeva pesante alla finestra, gialla come il paesaggio autunnale fuori. Giaceva indolente davanti ai miei occhi, si squagliava come un grosso tuorlo. Un ultimo stridore di una motosega nelle vicinanze, poi più niente nessuno, solo il paesaggio e la tenda giallo-oro, satura davanti ai miei occhi. Qualcosa mi faceva paura in quel rigido silenzio pomeridiano in cui non succedeva niente e tutti dormivano e io ero sola nella cucina rigovernata. Me ne stavo lì in piedi con un martellio nelle orecchie tappate dal silenzio, temendo di venire semplicemente ingoiata dal giallo che si gonfiava e avanzava strisciante riversandosi viscoso su ogni cosa. Si posava indolente a terra, fin dentro la cucina, spezzava a tradimento la me bambina e minacciava di affogarmi nella sua massa densa. Fu allora che mi salì dentro una collera contro tutto quel giallo sgargiante e quel silenzio sordo, insolente e invadente che voleva ingoiarmi senza una parola. Perché lo ricordo così bene? In fin dei conti non era successo nulla. Abbiamo dunque questa situazione. Non so se alcuni di voi hanno colto il primo brano letto dall'autrice, però viene poi ripreso. Abbiamo una madre, fin da subito, nella quale si manifestano dei momenti, come dire, di assoluta reticenza, quasi di assenza, nei quali segue con il dito il tessuto invisibile, i fili invisibili di una tovaglia, per poi riaversi e fare come niente fosse. Abbiamo una figlia che ricorda queste cose e il cui lutto è palesemente irrisolto in questa maniera. Fa fatica a fare i conti con la parola morto. E il suo modo di farci conti è un modo molto materico, molto materiale. È un libro anche molto materiale, dove il dolore si incarna moltissimo nel corpo. Il che poi è anche, io trovo, marcatamente, come posso dire, femminile nel senso proprio virtuoso di una scrittura che incarna i concetti. E poi abbiamo una figlia che ricorda quando da piccola, di fronte di nuovo a un telo giallo, questo per dire che le copertine non si fanno a caso, ha un senso, di fronte al silenzio assoluto che lo circonda, che può essere il silenzio della madre, può essere una mancanza di risposte, può essere la trasmissione epigenetica di questa stessa reticenza, non lo sappiamo, però finisce per provare una sorta di collera. E questi sono gli elementi fondativi di una storia, no, di Cristina, di una scrittura che va per tentativi, per approssimazioni successive, no? cercando diverse strade. Nelle prime pagine tu cerchi prima di ricordare i momenti con tua madre quando era già malata, cerchi di ricordare i viaggi che facevate insieme nelle sue zone d'origine, dove all'improvviso in lei si manifestava il dialetto originario e si lasciava completamente alle spalle, se c'era un tedesco standard, men che meno l'italiano del cognome del marito. Ma anche quello non basta. Tutto all'inizio è un tentativo mancato di approdare a quel segreto, finché a un certo punto tu decidi di provare a ricostruirne la storia familiare. Allora, la tematizzazione di un'impossibilità, no? Cosa ti ha portato a costruire questa scrittura che è una sorta di cerchi concentrici, no? Perché è la storia, perché la storia del tuo rapporto con tua madre è una storia di tentativi successivi? Se la domanda è troppo difficile, sai che puoi rispondere in tedesco, poi ci sì, pensiamo. Sì. Sì, è sempre un tentativo, ho tanti tentativi, come dici te, cerco delle strade, come capire qualcosa, come, e non so neanche se voglio capire mia madre o me stessa. E quindi sono sempre, ho anche, provo anche se, molto forte questo, una tensione tra ricostruzione o riflessione sul passato e anche di finzione, di certo, poesia, diciamo, anche di lavorare con il linguaggio, con la certo, lingua, non solo adesso voglio esprimere un certo pensiero, un certo qualcosa, però è sempre anche molto collegato, molto fissato alla lingua, quindi l'espressione o il contenuto non è solo il contenuto, ma anche la lingua. Sì, però questo non è proprio una risposta. Però voglio dire risposta, soltanto che la tensione tra passato, ricostruzione, tentativo di ricostruzione senza sapere ho ragione o trovo qualcosa nella mia ricostruzione o è anche questo una finzione poetica. Quindi questo processo, anche un processo di scrivere, è sempre presente. Ho ragione se adesso trovo qualcosa che penso che sia stato o che sia accaduto o è solo la mia, è una proiezione, è una finzione, o ho forse anche bisogno di questo punto o su questo tema per scrivere, è solo un alibi per scrivere. Quindi questa figura che racconta, Tia Zellerin, la narratrice, non corrisponde all'autrice, cioè, però non è sempre la stessa persona. E quella che racconta è proprio sempre attaccata alla lingua. Mm-hmm. E allora, cos'è la domanda? No, ma in realtà hai già risposto, sì, in questo modo, perché tu hai detto una cosa molto chiara. La tua ricerca, che è la... Noi che scriviamo sappiamo bene che autrice e narratrice non sono la stessa persona, diciamo, una funzione narrativa. Questa ricerca passa anche attraverso la lingua ed è giusta, sì, la risposta. Perché tu a un certo punto... Allora, caliamola un attimo nel concreto. Noi presto, leggendo il libro, veniamo a sapere che la madre, da piccola, da molto piccola, è stata ceduta dalla famiglia a un altro maso. Unica figlia di tutta la famiglia è stata ceduta presto, è andata a fare la serva contadina in un'altra casa. Lo sappiamo presto, non è un mistero. Quindi, e capiamo presto che intorno a questo distacco, a questo commiato, a questa partenza, si gioca qualcosa. La madre, l'unica cosa che racconta di questa roba qua era: quando andavo, prendevo la strada, quelle poche volte che andavo a trovare i miei genitori, cantavo a voce alta, sulla via del ritorno recitavo poesie a voce alta, a squarciagola, no? E lo racconta come se fosse una cosa, sai, avevo nostalgia di casa, cantavo a voce alta nella neve, in questi semi declivi innevati. Ma la cosa finisce lì, no? Tu ti dici, sì, però è come se ci fosse qualcos'altro. Possibile che di tutto quello che puoi aver vissuto da serva contadina a 4-8 anni ti resti che cantavi o che recitavi poesie ad alta voce? E quindi tu a un certo punto approcci questa cosa e dici, adesso cerco, invento e documento, finzione e documento insieme. E lo dici, giochi a carte scoperte. No? Dici, io qua invento, le fornisco un'ipotesi, forse qua è andata così. Qua ho la sorella, la zia che mi dice una cosa, qua ho una foto, qua invento. E nella ricerca di parole che tu fai, prima di ascoltare magari un altro brano, ce ne sono due su cui volevi farti una domanda. Una parola è la piccolezza. La piccolezza come condanna esistenziale. E l'altra parola è superfluità, cioè l'essere superflui. Ci diresti brevemente perché la vita a quei tempi, in quelle condizioni, in quelle zone, era una vita caratterizzata, gioco forza, da piccolezza e dall'essere superflui? Sì, dall'altra parte la questione sociale, diciamo, che i miei antenati, cioè la famiglia di mia madre e anche i bisnonni, facevano parte della gente povera, non erano contadini, non possedevano niente, e quindi questa condizione esistenziale proprio di essere nulla, già fondata in questa lunga storia degli miei antenati, della linea materna. E quindi questo è una condizione, una condizione sine qua non, che non significa solo io sono un nulla, però hanno anche un certo orgoglio, un certo stolz, perché per esempio si esprime anche nella storia di Hitler, nazionalsocialismo, eccetera, perché lì hanno veramente, sanno cosa è la cosa giusta e la cosa falsa, quindi lì non sono deboli, non sono i più piccoli, non sono i più quindi sanno benissimo come comportarsi, cosa pensare, e dicono anche una volta parla mia nonna, o dice, uno che si sente e si comporta come Dio, Hitler, cosa dice? Non può essere... Che non va bene. Sì. Allora, da quel punto in poi tutto è falso, quando uno si comporta come Dio e si sente anche come Dio. Allora, in questo momento so che, non sono qualcosa, che tutto è sbagliato. Ogni riferimento all'attualità è puramente casuale. Ecco, casuale, sì. Quindi in questo momento hanno una coscienza di se stesso, di se stessi, di essere, di sapere, anche di orgoglio. E l'altro superfluo, sì. Sì, l'altro contesto storico, magari anche il punto del cattolicesimo, no? Certo. Le generazioni prima di noi erano veramente così religiosi che questo sentimento di essere nulla e di essere quasi superfluo era veramente anche una questione di religione, del cattolicesimo. E non c'era dubbio, non è dubbio filosofico che si... Zweifle also bin ich, questo punto. Se ho dei dubbi, also cogito ergo sum, praticamente. Genau, giusto, yeah. Genau. Questo era un sentimento, o anche una condizione senza dubbi, sì, certo. Senza mettere in dubbio. Sì, sì, diciamo che anche questo era una forma di certezza, non voglio dire ideologica, però era una griglia attraverso la quale appoggiarsi rispetto a una fragilità. Abbiamo la piccolezza, il senso di piccolezza, non ho fatto la battuta per caso, prima della presentazione parlavamo di questa pagina dove si spiega con chiarezza illuminante come il contadino Pichler aderisca all'hitlerismo in una maniera che finalmente lo fa sentire sicuro di sé, forte, cioè diciamo l'autoritarismo, cioè l'idolatria dell'autoritarismo come antidoto alla fragilità, no? È incredibile, ha una presa anche sull'oggi molto forte. La superfluità, il cattolicesimo, una presenza molto forte, ci sono pagine molto belle sul ruolo della preghiera nella vita della madre, nella vita della narratrice, la presenza di Dio, l'inconciliabile presenza di Dio rispetto a quella di Gesù, per esempio, no? Però ecco, abbiamo capito qual è il contesto: rurale, povero, fortemente con una religiosità insomma basica, mi verrebbe da dire, un senso forte della propria irrilevanza sociale e storica, ma poi ci sono delle componenti anche molto, molto fisiche, come la fame. No, perché una cosa che appunto noi quasi tutti insomma possiamo ricondurre alle generazioni precedenti e soprattutto se di origini contadine è la fame. Ora, la fame non è detta per caso, poteva capitare di cedere un figlio o una figlia perché non si era in grado di nutrirli tutti, no? E potrebbe essere una causa o l'altra di questo abbandono, di questa cessione della bambina, della futura madre della narratrice, non lo so, però io vi invito anzitutto magari a illuminare questo aspetto con una lettura, così andiamo avanti nel libro. Se posso aggiungere una piccola cosa prima che leggiamo, Cristina ha detto, a un certo punto si chiedeva se la storia fosse un alibi per scrivere. Al tempo stesso nel testo la scrittura, come diceva anche Stefano, è una scrittura che si muove a tentoni e si sente nel respiro del testo questo tentativo di andare avanti con la scrittura che si trägt die Geschichte, no? E quindi la storia diventa storia attraverso la scrittura. Quindi c'è una circolarità tra la storia come alibi per scrivere e la scrittura come possibilità per raccontare. E secondo me nella prima parte di questo Glust c'è proprio questa sensazione della lingua che ti porta. Sì, benissimo. Ecco. Benissimo. Ascoltiamo che cos'è il Glust. Allora si parla del Glust, che è una parola, è un termine che conoscono neanche i tedeschi, quindi cioè della Germania, è un termine del dialetto. E io parlo di mia nonna o della nonna della Erzählerin. Einmal beichtete sie, einen Glust gehabt zu haben. Kein Wort von Hunger. Glust, muss man wissen, ist Lust und Genuss im Gaumen, ist das Verlangen, das einem wie Wasser im Mund zusammenläuft. Im Hunger läuft nichts zusammen und der Mund bleibt trocken. Aber selbst wenn es nichts mehr in einem gibt, gibt es immer noch die Sünde, sagte der Pfarrer. Sie muss nicht begangen werden, sie ist gar nicht Tat, sie ist Zustand und einem jeden eigen, sie ist Erbe, durch das einer Mensch wird. In questo caso vi rileggo anche in italiano questa parte. Una volta riferì di aver avuto un Glust. Della fame non fece parola. Glust, bisogna sapere, è la voglia, il piacere sul palato, il desiderio che ti scorre come l'acqua in bocca, è l'acquolina in bocca. Nella fame non scorre niente e la bocca rimane asciutta. Ma anche quando non si ha più niente dentro c'è sempre il peccato, diceva il parroco. Non bisogna commetterlo, non è un'azione, è una condizione, propria a ciascuno. È eredità attraverso cui si diventa esseri umani. Avendo quindi imparato che anche senza peccati sei una peccatrice, mia nonna andava a confessarsi. E poiché dipendeva da lei per cosa avesse peccato, mia nonna cercava in sé un peccato. Oltre a quel glust, non le veniva in mente niente. Il glust è un peccato della carne e lei sentiva la sua carne bramare cibo che scarseggiava. Potrebbe essere stato questo a farle scovare quel peccato, nel cassone della farina, nel vaso in terracotta dello strutto, nel bidone del latte sotto le uova incalcinate. Non v'era altro in cui avesse potuto esservi glust e nascondersi un peccato. Andava a confessarsi presto al mattino. Scelgo di farle percorrere la strada verso la chiesa partendo dalla casa del Pichla. Attraversa il cortile, il prato, l'erba nella rugiada, i campi, il fieno appeso alla rastrelliera, il ruscello che porta ancora l'acqua del disgelo dalle montagne. Arriva il campanile che punge il cielo e mia nonna è ancora in cammino, sempre in preda alla fame. La accompagna da quando si è alzata dal suo giaciglio al mattino. La fame non la molla, nemmeno sulla strada verso il confessionale. È lì come il pagliericcio di notte, l'aria di giorno, il fieno, il ruscello, la punta del campanile. Non si nasconde, non deve andare a cercarla come il peccato, che potrebbe essere ovunque, perché è già ovunque, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Sulla strada dal Maso, oltre il ponte fino al campanile, mia nonna escogita qualcosa da dire al parroco. La testa le gira come una trottola, cerca il peccato. La trottola gira attorno a un centro che si chiama fame. Lo trivella come l'insonnia alla veglia, che sta in agguato per vedere se il sonno arriva e se non arriva si becca la frusta. Mia nonna veglia sulla fame e bada che tenga la bocca chiusa, che si tenga nascosta, perché nessuno la senta e nessuno la veda. Mai e poi mai qualcuno avrebbe dovuto leggergliela addosso. La spinge dietro la bocca dello stomaco, dove deve dar pace. Deve calmarsi, ammutolirsi, non deve muoversi affinché il peccato possa parlare. Solo che non dà pace. Trasforma il profumo del fieno nel profumo del forno, mentre la fame rosicchia il tessuto della sua veste. Così mia nonna si reca al confessionale. Si getta in ginocchio davanti alla grata in legno, dietro cui è seduto il parroco, con il suo respiro pesante che viene dal buio. Se ne sta lì seduto con le mani giunte, umidice, si strofina le dita per farle gocciolare e sta a sentire cosa ha da dirgli mia nonna e che aspetto ha il suo lato interiore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, amen. L'ultima volta che mi sono confessata è stata domenica scorsa. Riconosco i miei peccati davanti a Dio. Ho avuto un glust. Mia nonna trasformò la fame in voglia e la voglia in peccato. Ribattezzò la fame in peccato. Non conosco i motivi che spinsero mia nonna a trasformare la fame in peccato. Ciò che ho sono storie che la ragione non comprende, sebbene mi paiano sufficientemente chiare. Sto seduta davanti allo schermo e scrivo frasi su come, molti anni fa, nonna andasse a confessarsi. Non ho nient'altro che le mie frasi, così come lei aveva le sue, che trasformavano la fame. Il parroco la solveva dai suoi peccati, del glust poteva pentirsi, ma che assoluzione poteva esserci per la fame? Riesco a immaginarmi cosa sia la fame, cosa posso sapere di mia nonna se non so cos'è la fame. Se lo sapessi, forse le darei anch'io un nome come glust e con quello andrei a confessarmi, se mi confessassi. Io non so cosa sia la fame, non conosco la fame, non posso dire niente di lei. Non so se si prova fame come si prova un dolore. Non so se questo dolore è tutto ciò che si diventa, se ti consuma e non lascia più niente di te. Se ti incalza come un animale cui si dà la caccia, io non lo so. Se la fame ti scavi o ti riempia, se ti derubi, imbrogli o menta, come tolga le forze e come la dignità, non lo so. Non so come si chiama la fame quando non indietreggia mai. Ecco, quindi qui si capisce bene che cosa significa incarnare anche i concetti nella storia, no? Che cosa poteva voler dire interiorizzare la fame in un apparato di credenze che la portava a considerare un peccato. E certo, è uno dei passaggi sicuramente anche più duri, no? Dove la scrittura si assume, come posso dire, la pena di cui racconta. Questo sì. Questo fa parte di, come dire, di un testo molto ondulato. Per esempio, la nonna, questo passaggio qua, viene dopo la ricostruzione altrettanto mista tra ipotesi e documento degli avi. Quindi c'è la storia di Anna, che è una figlia legittima, c'è la storia di Jacob, che è un po' lo strano di turno, insomma, che ha sì una sorte tragica, però la cui storia è anche piuttosto colorita. Ci sono questi scenari alpini che solo pian piano portano alla nonna. È questo tentativo che la narratrice fa nel corso del libro di avvicinare pian piano la madre attraverso la storia familiare, con una forte impronta matrilineare. Questo va detto, perché comunque la storia, che è una storia di un confronto tra una figlia e una madre e che risale alle figure femminili che l'hanno preceduta, è una storia che, pur annoverando anche dei personaggi maschili, l'abbiamo detto, il contadino, il Pichler che aderisce al nazismo, il Jacob stesso, eccetera, è una storia che va fortemente alla ricerca di questo misto fra continuità e rottura, mi verrebbe da dire, no? E che contempla queste sensazioni viscerali. Abbiamo citato la fame, tu a un certo punto hai citato la vergogna. Mi verrebbe da citare anche la paura. Ti avevo accennato che c'è un passo che mi interessava, magari se ci capita, c'è un passo dove si parla molto della angst, che Cristina per esempio ha scelto di tradurre come angoscia, per distinguerla dalla Furcht. No? E quindi anche qui le scelte della traduzione portano a questo, ma partirei dalla vergogna. Perché la vergogna è una parte tanto importante in una storia di questo tipo? Bah, un po' difficile. Ma dall'altra parte, forse abbiamo già parlato un po' di questa vergogna, partendo anche da quel punto, quella domanda di scrivere, no? Ah sì, certo. Sì. Che ci sono quelli che hanno i diritti e quelli che hanno per i quali vale il divieto, diciamo, e penso che questo momento di vergogna faccia anche parte di questo complesso, tutto questo tema. Se io mi permetto, per esempio, di scrivere, devo superare anche questo momento di vergogna, cioè è sempre questa vergogna, è assurdo, però non posso negarlo. E devo superare questa vergogna prima di scrivere, prima di incoraggiarmi per un'azione, prima di esprimermi, insomma. E poi anche, come abbiamo detto, fa parte anche di questa cultura, penso. Certo. Questa cultura alpina di contadini e i superiori e quelli che non hanno né maso né niente. E quindi la vergogna anche è un fenomeno e un momento sociale. Che conosciamo, per esempio, anche delle letture di Annie Ernaux, che parla molto e per la quale è proprio un momento molto importante per una nuova, quasi per questa lettura di autofiction, no? Autofiction si dice. Sì, che no. E quindi anche le donne che adesso hanno il coraggio di parlare sulla vergogna, su questo momento molto difficile, molto sensibile, e che in questo momento è quasi, direi, un fenomeno molto femminile. La sham, non voglio dire che gli uomini, i männer, non lo conoscano, certo, però la vergogna femminile è ancora un altro fenomeno, penso, che pian piano entra anche nella letteratura. Devo dire che Annie Ernaux è stato il primo possibile riferimento o pietra di paragone che mi è venuto in mente leggendo il libro, insieme magari ad altri, insomma, però ecco, diciamo che questo romanzo appunto si colloca in una costellazione ormai veramente molto ampia che si è sviluppata poi negli ultimi decenni, che punta a restituire appunto anche questa storia culturale, questa storia, insomma, l'esistenza al femminile in una storia che appunto fino adesso forse aveva conosciuto, forse, senza forse, delle omissioni. E io... E forse posso aggiungere solo un attimo, mi sono quasi meravigliata e stupita quando mi sono resa conto che questo momento di vergogna che si trova veramente anche nelle generazioni prima di noi, nella generazione di mia madre, di mia nonna, di mia bisnonna, che si trova in ogni narrazione o in ogni biografia di questi, e noi come generazione abbiamo studiato, siamo andati fuori, abbiamo fatto delle esperienze con stranieri, tutto quanto, e abbiamo anche riflesso su tutto quanto, abbiamo riflesso sulla emancipazione e tutto quanto, però alla fine quando sei sola provi o noti anche questo momento di vergogna, e tutto quello che hai riflesso, che hai studiato anche, che hai come ideologia, come ideologia intellettuale che hai consumato, conta niente. In quel momento esistenziale non ti tocca neanche, sei in un certo senso anche nuda. Però al tempo stesso è proprio il fatto, è vero anche il fatto che la vergogna va di pari passo col silenzio, ciò di cui si vergogna non si dice, non si racconta, no? E quindi questa possibilità, cioè questa colpa a cui è legata la vergogna della madre, innanzitutto, in primis, no? Questa colpa di cui non capisce perché ha dovuto essere allontanata dalla famiglia a 4 anni, no? Quindi la colpa e la vergogna che si associano attorno a questa sensazione sono l'inizio del silenzio, e se è vero che in quel silenzio c'è anche la piccolezza del non potersi dire, non potersi raccontare, è vero anche che è proprio col racconto che poi poco a poco si elabora anche, no? In qualche modo. Sì, ecco, infatti Cristina vi ha anticipato un meccanismo che viene messo in luce bene a un certo punto del libro. Anche questo non si tratta di spoilerare, forse avete capito che non è un libro di trama, è un libro il cui segreto viene esplorato attraverso la composizione, attraverso la forma, attraverso la lingua, e che ci trasporta attraverso il ritmo, attraverso il linguaggio, non tanto attraverso cosa succede dopo, come fa la letteratura spesso, fortunatamente. E Cristina appunto anticipava quello che poi viene via via eviscerato, che è un po' il meccanismo del trauma, no? Spesso la colpa o il senso di colpa nasce dalla mancanza di spiegazioni reali, alternative, di fronte a un evento che non sappiamo spiegarci, e dalla colpa poi nasce la vergogna. Stiamo sempre nell'ambiguità della narratrice, è la narratrice che ricostruisce, quindi noi ci facciamo guidare da lei. E perché lo dico? Perché quando adesso Cristina invece ha accennato al fatto noi invece possiamo, abbiamo viaggiato, perché tutto questo poi ha un contraltare con il presente, perché la narratrice racconta di sé, racconta di quanto era studentessa a Vienna, di come usciva nei vicoli di Vienna e si sentiva libera potendo camminare nei vicoli come nessuna delle sue progenitrici aveva mai fatto, no? Per esempio. E questa cosa torna al presente, l'ultimo periodo con la madre. Io so che ci sono degli estratti che forse possiamo, che ci danno un'idea di come il romanzo qui prende anche una luce diversa, vorrei dire, no? Una luce che a me fa venire in mente poi le nostre zone di oggi. Ma io qui mi fermo e vorrei fare una domanda molto più sbarazzina. Cioè, io so che tu hai dei brani prediletti. E vorrei che dessimo un ultimo assaggio, visto che stiamo facendo allo scoccare dell'ora, di alcuni brani del testo, perché di fatto siamo qua per invitare alla lettura di un romanzo. Se c'è qualcosa che secondo te, Cristina, è esemplare anche nel restituire la varietà che pur nella continuità narrativa questo libro contiene. Ti chiederei di farcelo sentire. Allora, forse per dare idea della varietà, perché forse delle parti poetiche abbiamo già dato un po' idea, ci sono parti estremamente poetiche, non mi vergogno a dire che per trovare le parole per tradurre un paragrafo io mi sono trovata con le lacrime agli occhi per andare a cercare queste parole in italiano, però ve le risparmio qua per evitare anche un eventuale, come dire. E invece magari leggerei proprio le parti in cui, magari brevemente, ecco, se c'è un attimo di tempo, quella di questa nonna che a un certo punto si mette a imprecare. Dunque, forse non è ancora venuto fuori veramente, questi nonni materni, c'è il nonno che è perso nella preghiera, cioè lui praticamente vive solo nella preghiera e insieme a lui c'è questa donna che appunto è molto povera, è anche questo senso di piccolezza la pervasa e quindi in qualche modo cerca di vivere nel suo mondo molto umile, molto modesto, non facendosi mettere i piedi in testa da nessuno, ma comunque non dando mai segni di grandeur, diciamo, e fino a che appunto si raggiunge il limite e a quel punto tutti e due vanno fuori carattere, diciamo. Un giorno mio nonno andò su tutte le furie. Non sparì senza dire una parola, come colando lungo una clessidra. Andò con mia nonna dietro casa. Il sole era ancora alto ed era luminoso e mio nonno diritto e deciso nell'abito della domenica, d'un tratto uomo nel mondo. Il Pichler ha appeso Hitler in salotto al posto del signore. Altro non disse. «Diavolo!» esclamò allora nonna. Diavolo era una parola che teneva sempre in bocca, pronta a sputarla. La sputava via come il moccio dal naso. Volò con slancio fuori da lei, sparandosi in aria prima di andare a schiantarsi a terra, mentre mio nonno seppelliva ancor più le mani nelle tasche dei pantaloni e si mordicchiava le labbra. Certo, considerava parlare superfluo. Certo, parlare per lui era inutile, dato che quello che c'era da dire poteva essere detto con la preghiera o semplicemente non era da dire. Parlare per lui era inutile come le rotelle che girano a vuoto nel meccanismo dell'orologio, di cui conosceva alla perfezione l'interno, i grandi ingranaggi di una cremagliera e quelli piccoli di un orologio, la velocità angolare, il moto rotatorio, l'energia prodotta dalla meccanica. Quando girano a vuoto, le rotelle sono in azione, ma non trasmettono forza. Ecco quanto a mio nonno pareva uno spreco parlare, ma ogni tanto ci voleva. Sapeva da fare, come pregare, sprangare la porta di casa la sera e ora, dopo che mia nonna ebbe sputato fuori il diavolo dietro casa, andare dal Pichler. «Se non togli Hitler dalla parete, non entrerò mai più nella Stube», disse mio nonno poco dopo al Pichler. La sera Hitler non era più appeso nell'angolo del Signore, ma il culto di Hitler rimase. Ancora forse... Ci vuoi. Nonna era ai fornelli nella cucina grande. La cucina era alta e aveva una volta come un coprivivande in vetro. Sotto c'erano due tavoli in due angoli, un buffet, una credenza, la cassetta per la legna e in mezzo un focolare gigante su cui la contadina e mia nonna cucinavano fianco a fianco, ciascuna con le proprie pentole e mia nonna nella sua fame ossuta. Mescolava il latte nel tegame, ci versava dentro la farina lentamente, come se fossero i suoi pensieri a riversarsi prima nel latte e poi nella brodaglia. Pensava al contadino, pensava ai suoi figli rumorosi, pensava ai segni che diventavano chiari e cupi e avanzavano simili a crepe sulla campana di vetro che ormai invisibile si chiudeva a volta sull'intero maso. Ogni giorno il contadino parlava del Führer e del fatto che ci fosse di nuovo una germanicità, che ci fosse un polso forte, una linea precisa. Grazie a uno come il Führer, uno come il contadino otteneva chiarezza al posto di tutta l'incertezza in agguato dentro di lui, come un animale dormiente che poteva destarsi in qualsiasi momento, che poteva fare un balzo e azzannarlo al collo e allora il contadino sarebbe stato sua preda, spacciato. Quello gli faceva paura. Uno come il Führer cacciava via l'animale da uno come il contadino, lo reprimeva per lui, ed un tratto tutto si faceva molto semplice. Bastava solo reprimerlo con il polso forte che era offerto a ciascuno. A quel punto l'animale veniva inghiottito come da un terremoto e ci si sentiva al sicuro e si era tra i forti. Questo piaceva al contadino perché ne aveva un'intuizione istantanea. Era come una chiave che poteva girare dentro di sé. La girava e faceva sua la forza del Führer come fosse la propria. Questa è una pagina molto bella che fa capire come... Cioè, è l'esplorazione interiore, no, di che cosa succede, di che cosa genera l'adesione al grande capo, no, penso. Ed è veramente forte e anche molto limpida. E, Cristina, un'ultima domanda. Anzitutto ti ringrazio per quello che hai fatto, perché non credo siano molte le zone d'Europa, men che meno d'Italia, dove a una presentazione di un libro l'autrice si presenta e risponde nella lingua in cui il libro è stato tradotto. E quindi questo è molto bello. Siamo in Alto Adige, appunto. In un certo Alto Adige. Che cosa hai delle attese, delle aspettative da questo libro? O per te la traduzione è già un risultato che dici... No, sono molto molto felice e ringrazio di cuore Cristina e anche Alfabetta, Giuliano Geri, che da qualche che adesso non lo vedo. Sì, certo. No, sono veramente molto felice di questo prodotto, di questa, che è uscito un anno dopo il libro tedesco. No, niente, spero che... che abbiamo ancora tante serate assieme. Beh, in ogni di caso di presentazione eccetera. Sì, niente. Noi ringraziamo te perché comunque è un modo anche per confrontarsi in un certo modo con un certo mondo da un certo punto di vista che finora non c'era per la comunità di lingua italiana di lettrici e lettori, e quindi grazie. Chiedo a voi se ci sono delle domande, volentieri. Ovviamente Cristina sarà disponibile per filmare le copie che trovate là dietro, e, però se ci sono domande che volete condividere con il resto del pubblico, volentieri, c'è ancora qualche minuto. Prego. Purtroppo è il secondo. Sì, mi sono chiesta anch'io. Allora, mi sono chiesta perché riesco adesso, cioè dopo la morte di mamma, di questo lutto veramente anche grave, avevamo un legame molto forte, però sono riuscita a scrivere e ho avuto questo coraggio di fare un libro, di scrivere un libro, non solo a casa, nella mia stube, nella mia camera. E mi sono chiesta anch'io perché, il motivo, perché adesso si libera qualcosa. Devo veramente dire che si è liberato qualcosa dentro di me e che è... che è saltato fuori anche, non era neanche un progetto, un programma, adesso voglio scrivere un libro e su questo tema, neanche quello, però era veramente un impulso molto forte, molto sì, inevitabile. E cosa ancora volevo dire? Beh, c'è da dire che tu lo metti anche in opera, questo tipo di liberazione. Sì. E se lo leggerà si renderà conto come questo fortissimo legame sia poetizzato attraverso appunto dei dettagli anche corporei, il passo, la sovrapposizione tra i volti, no? C'è un bellissimo passaggio sulle suture del volto. E appunto, quando abbiamo accennato alla giovane narratrice, voi troverete alla fine, dopo aver assistito agli ultimi giorni, no? Della madre che prende la morte come compito. Si dice, mia madre ha preso la morte come un compito e ha cercato di fare bene fino all'ultimo anche quello, perché bisognava farlo bene. E questa liberazione, che poi si capisce che ha portato alla scrittura, viene raccontata, ecco. Prego. Forse arriva il microfono. No. Ho tre fratelli, due sorelle e un fratello. Sì. Sono stati entusiasti di questa cosa? No, questa è una domanda un po' privata, sì. Anche un po' difficile, sì. Perché certe espressioni come il Teufel, mm-hmm, che detto in italiano diavolo non sa proprio da niente, diciamo, ma il Teufel è più incisivo, no? E allora sarebbe stato importante che fossero state fatte la pubblicazione sia in italiano che in tedesco, senza comprare. Si possono comprare due libri, non ci sono problemi, però si capisce per noi che siamo qui del posto, certe espressioni darebbero più senso alla traduzione, forse. Ma devo dire che anche questa è una traduzione già da Teufel, dialetto Teufel, è veramente a Teufel, è già un po' una cosa diversa. Sì, sì, certo. E quindi È un po' difficile tradurre queste cose. Sì. Dal punto di vista editoriale, se posso permettermi, abbiamo qui degli attori del campo editoriale che le possono confermare che i libri bilingui non vendono, ma proprio non vendono. E senza contare che se vogliamo portare questi testi e quindi questi fuori da qui, fuori dai 500.000 che siamo, devono per forza essere monolingui. E credo che il senso di queste operazioni sia anche proprio quello di uscire dai confini provinciali e fare in modo che questa cultura, questa narrazione sia poi reperibile anche presso qualunque lettrice o lettore di madrelingua, insomma. No? Sì, e poi forse bisogna tenere anche conto del fatto che un'opera tradotta prende vita in sé, nella sua traduzione. Ci saranno tante cose che nella mia traduzione si distaccano leggermente dal tedesco. In alcuni casi c'è qualcosa che si perde, a volte non sono possibili allitterazioni, allora poi magari facciamo quello che in traduttologia si chiama compensazione, ovvero non lo facciamo in quel momento un'allitterazione, ma la riprendiamo altrove, laddove la lingua ce lo permette, no? A volte ci sono anche delle aggiunte, perché per esempio proprio la sutura di cui parla Stefano, questa nat, che in tedesco sarebbe appunto stata, poteva essere tranquillamente una cucitura, perché parla sempre di cucire. Se io ho deciso di tradurla come sutura è per un insieme di coincidenze, ad esempio il fatto che avessi appena tradotto un libro da francese che si chiamava La sutura e che riguardava un rapporto con una madre che è morta di una morte violenta e questo legame che è doloroso. E proprio per il fatto che nella mia lettura ho letto questa vicinanza, appunto questo essere cucita addosso, no? Come dice a un certo punto, che però nonostante tutto l'amore ha anche un elemento di dolore. Quindi diciamo che la traduzione non è mai, diciamo, uno a uno, non funzionerebbe mai, non avrebbe più senso nella poetica della traduzione. No? Quindi in questo senso può risultare molto interessante sicuramente fare a volte magari sulle poesie anche un confronto col testo a fronte. Di fatto secondo me era un po' quello che intendevo all'inizio, no? Che avere questo approccio con la penna rossa di controllare cosa è stato fatto bene fa perdere poi al testo un pochettino il senso profondo della riproduzione di una cultura, di una storia e di una lingua in un'altra cultura, storia, lingua. Per esempio, quando tu accennavi prima Furcht e Angst, no? Che di per sé potrebbero essere considerati perfetti sinonimi anche, no? In realtà, appunto, nella mia interpretazione, e la cosa bella è proprio quella che ogni traduttore avrà anche un'interpretazione diversa. Poi io, nella fattispecie, alla fine del mio lavoro, lavoro sempre con gli autori, no? Per cui mi confronto sempre per vedere se le mie interpretazioni in qualche modo coincidono, no? Con la loro chiave di lettura. Però per esempio per Furcht io ho avuto in mente i fratelli Grimm e la storia vom einen der Auszug um das vorzulernen, genau, che in italiano è stato tradotto con la storia di chi andò in cerca della paura, no? Quindi per me la Furcht è rimasta la paura, così come la Angst, che si riprende in vari punti del testo, nel momento in cui diventa l'angoscia ed è una Angst che viene vista vissuta dai due personaggi, da Jacob che sta perdendo la testa e da Anna, che in Jacob aveva una famiglia che all'improvviso la perde e quindi a sua volta è angosciata, no? Lì sono andata con tanti termini diversi, avanti e indietro, eccetera. Poi in realtà è stato proprio il testo, come spessissimo succede, a darmi la soluzione, perché a un certo punto è angst non è angst vor. E quindi è l'ansia, e dall'ansia è diventata l'angoscia, no? Ecco, questa, come dire, l'interpretazione che va, come dire, oltre la parola stretta, ma poi torna alla grammatica, è un po' la prova del 9 per me, no? Questo per dare un po' il senso, sì, del... Esatto. Per avere un po' un breve saggio di che cosa sia questo tipo di lavoro. Bene, se non ci sono altre domande, l'incontro non si chiude qui, ma con la firma copie. E quindi io ringrazio Cristina, i nostri ospitanti o ospiti, l'editore, e vi ringrazio di essere venuti. Buona serata. Grazie Stefano.